Il mio amore è nato a Malaga, Malaga, Malaga. Il mio cuore resta a Malaga, Malaga, Malaga. In quella casa dal patio antico, quante dolcezze t'ho sussurrato. In quella notte di grande fiesta, io t'ho donato il mio cuore, tutto l'amore. Il mio amore è nato a Malaga, Malaga, Malaga. Il mio cuore resta a Malaga, Malaga. Quella notte di grande fiesta, io t'ho donato il mio cuore, tutto l'amore. Il mio amore è nato a Malaga, laggiù a Malaga. Il mio cuore resta a Malaga, Malaga.